la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, 16:31 primi, 39 secondi. E grazie per l'ascolto, come sempre, in diretta in podcast della versione di Oscar da parte di Oscar Giannino. L'indirizzo la versione di Oscar @radio24.it. Vi dico subito che l'argomento della puntata, ogni tanto fatemi tornare anche il pomeriggio un po' alle questioni economiche, finanziarie e bancarie, perché ieri è avvenuta una cosa che ai miei occhi ha del gigantesco, per così dire. Nei giornali di oggi ha avuto la collocazione delle pagine economiche, perché ovviamente avvengono grandi cose, la politica italiana, l'Europa, eccetera, eccetera, però è una cosa su cui valutare con attenzione, perché quello che è capitato ha del clamoroso, nel senso che 10 mesi fa era stato presentato al pubblico italiano, ai mercati italiani, ai mercati internazionali, la nascita del Fondo Atlante, come sapete, come del risolutore del problema dei crediti deteriorati delle banche italiane, come lo strumento tra virgolette privato che avrebbe raccolto fondi per rilevare molti crediti deteriorati dai bilanci bancari a un prezzo che non era quello richiesto dai fondi specialisti internazionali identificati come delle locuste che vogliono rilevarli a prezzi troppo bassi per lucrarci, mentre invece sarebbe stato uno strumento privato ma cooperativo sottoscritto da capitali italiani per dare più tempo e minori svalutazioni alla cessione da parte delle banche in difficoltà. E era nato quindi tra squilli di tromba, innumerevoli dichiarazioni che potrei citarvi nei mesi da parte del ministro Padoan, fondo privato ma molto ben accolto come strumento risolutore della crisi del credito deteriorato delle banche italiane, dello stesso regolatore da parte di Banca Italia, la prima fila di tutti i banchieri italiani, una conferenza stampa in cui la persona chiamata a guidare la questio che è il nucleo del fondo Atlante, e cioè Alessandro Penati, una persona che io conosco molti anni, molto stimata, che ci lasciò molto perplessi. Qualcuno ricorda che ai conti della Belva noi iniziamo subito non a sparare contro ma a criticare, perché non capivamo alcune cose. Primo, i fondi raccolti sarebbero stati in grado davvero di fronteggiare e sfidare 200 miliardi di crediti deteriorati lordi, una novantina di crediti netti? Ci sembrava di no, e infatti poi si vide che fu così. E poi l'ambizione era quella dichiarata di riprezzare tutto il mercato degli NPL italiani, e in più di riprezzare addirittura l'equity bancario italiano, che era depresso per via di questa questione dei crediti deteriorati, e in più si prometteva a chi sottoscriveva il fondo un ritorno sul capitale investito del 6% annuo per quello che riguardava gli NPL, e nel caso di assunzione di partecipazioni nelle banche addirittura del 15%, e noi iniziamo a grattarci la testa. Allora, nel frattempo le vicende si sono avviluppate, sono andate avanti, MPS, le due banche venete e così via, e ieri Alessandro Penati, ospite a un convegno organizzato dai geometri, ha fatto saltare il tappo e ha parlato a ruota libera, dichiarando in buona sostanza il fallimento delle finalità così impegnativa dichiarate al Fondo Atlante, dicendo oltretutto, entrando nel merito anche di vicende bancarie, dicendo che l'aumento di capitale del Monte dei Paschi è stato condotto con i piedi, facendo chiaramente intendere che a questo punto non sarà Atlante a occuparsi degli NPL, dei famosi 27 miliardi di NPL che dovevano essere parte integrante poi dell'aumento di capitale sul mercato fallito per MPS, e quindi ci dovrà pensare qualcun altro, cioè lo Stato. È entrato nel merito della vicenda delle due banche venete. In particolare io vorrei che gli ascoltatori che hanno titoli in mano, obbligazioni della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, stessero molto attenti, perché è di loro che si parla. E dopo aver detto ieri Alessandro Penati che lui ha i banchieri contro, che gli votano contro, che la situazione italiana viene capita meglio in BCE e dal regolatore europeo che dalle stesse autorità italiane, ha detto fuori dai denti, se fossi amministratore delegato e presidente della Vicenza e della Veneto non ne sarei molto felice, che a questo punto ci sarà bisogno dell'intervento dello Stato nell'aumento di capitale, a questo punto necessario dopo la fusione col nuovo piano industriale di Vicenza e Veneto, cioè ci vorrà un aumento precauzionale secondo la BRRD del tutto analogo a quello che è contenuto nel decreto all'esame del Parlamento, e lo ha annunciato lui. Non si è capito a questo punto, una volta stabilito che i fondi restanti di Atlante andranno alla ricapitalizzazione delle due venete, ma comunque con una presenza dello Stato importante, tanto che lo stesso Penati non ha saputo dire se è maggioritaria quella prevista dallo Stato oppure no, tutto naturalmente soggetto poi a richieste, autorizzazioni da parte dei regolatori europei e così via. Non si capisce bene a quel punto anche la parte dei crediti deteriorati successivi delle due banche, chi se ne occupa, visto che Atlante sarebbe alla fine delle sue risorse una volta che mette il resto del suo denaro raccolto nell'aumento di capitale post fusione delle due venete. Tutto questo mentre la scorsa settimana, quando Fidentiis Equities, un operatore del mercato finanziario italiano, ai suoi clienti aveva detto il net asset value di Atlante è zero a seguito della svalutazione della quota che Unicredit aveva messo 800 milioni in Atlante, grande reazione di tutto il protagonista del mercato italiano dicendo no, poi si è visto che in realtà le svalutazioni arrivano anche da parte delle altre banche. E in realtà abbiamo capito che effettivamente il NAV, non voglio dire che sia zero come diceva Gianluca Cotagnola di Fidentiis, ma insomma siamo lì. Io vi ricordo chi ha messo i soldi in Atlante fino a questo momento, poi passo ai due ospiti per sentire cosa ne pensano loro, perché Intesa San Paolo ha messo 850 milioni, non ancora tutti versati, ma sono quelli. Unicredit idem, fondazioni bancarie 500 milioni, CDP 500 milioni. Poste Vita, e mi scappa una 250 milioni, UBI 200 milioni, Generali 150 milioni, Banca Popolare dell'Emilia Romagna 100 milioni e così via, Unipol 100 milioni, Allianz 100 milioni, Cattolica 50 milioni, tutto questo per un strumento salvifico che oggi per bocca di chi è stato chiamato a guidarlo ci dice sugli NPL molliamo la partita. Possiamo giusto partecipare all'aumento di capitale delle due venete, ma comunque ci sarà bisogno dello Stato e qui abbiamo fallito. Lui non ha detto così, ma insomma io la capisco così. Francamente, visto il concerto che c'è stato all'atto della nascita nei mesi successivi, sarebbe il caso, e qui finisco la mia opinione, di sentire da parte di qualcuno che ha respinto sempre le nostre critiche motivate sui numeri, di sentire parole altrettanto sincere di quelle di Alessandro Penati, perché attraverso iniziative di questo tipo, che poi sono condannate al fallimento, l'Italia perde credibilità di fronte ai mercati internazionali e ai regolatori esteri. E i tedeschi e le fratture dell'Unione Europea che ci sono, o i difetti dell'euro, non c'entrano un beneamato piffero con tutto questo, perché queste sono cose mal fatte tutte di casa nostra. La domanda a questo punto è: cari azionisti obbligazionisti di Veneto e Vicenza, ne riparleremo più avanti verso fine mese, perché spero di avere Mion e ospite in trasmissione il presidente della Vicenza per parlarne. A questo punto siete incentivati ad accettare il 15% di ristoro che vi offrono le due venete, o con queste inopinate dichiarazioni di Penati siete disincentivati perché magari sperate che con l'ingresso dello Stato il ristoro sia maggiore? Attenti, perché c'è un rischio, perché rischiate di non avere niente. E poi attenzione, che se si fa l'aumento di capitale precauzionale con lo Stato anche che entra in Vicenza e Veneto, bene, ricordatevi che per BRRD dovrà esserci una compartecipazione dei junior obbligazionisti in quell'aumento di capitale, quindi dovete fronteggiare queste nuove ipotesi apprese in una maniera, a mio giudizio, molto singolare. Io stimo molto Penati, ma certo quella di ieri è stata una vera scossa di terremoto su vicende che hanno, quelle in corso bancario delle due veneti, una delicatezza tale che forse un po' di prudenza in più non sarebbe stata sbagliata, anche se poi in effetti quello che ha detto Penati sul fallimento di Atlante è, oimè, quello che i critici avevano visto fin dal primo giorno. Per parlarne abbiamo con noi due colleghi che seguono queste vicende in maniera approfondita e con maggiore autorevolezza di me, e li ringrazio di essere qui. Andrea Greco di Repubblica, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci seguono. Camilla Conti del Giornale, che oggi ha fatto il suo pezzo su questo, evocando Frankenstein Junior, quando perché Frankenstein Junior fu mandato in onda alla fine della conferenza stampa di Penati, ed è la scena quella nel cimitero in cui stanno scavando per cercare il corpo in cui innestare il cervello, in cui a un certo punto, rivolgendosi a Igor, Frankenstein gli dice: beh, insomma, qui le cose si mettono male, potrebbero andare peggio. E quello gli dice: sì, potrebbe piovere, e si sente il tuono e la pioggia. Ed eccoci qua, il tuono e la pioggia è arrivato. Allora, Andrea Greco, sorpreso di queste dichiarazioni, e che conseguenza vedi per le due venete innanzitutto, che si trovano in una condizione difficile, con tutte queste comunicazioni date al mercato fuori dalle modalità del mercato? Beh, io personalmente, siccome sono un addetto ai lavori, conosco Alessandro Penati, conosco il management delle banche venete e conoscevo la situazione. Tra l'altro ho appena finito di scrivere un libro sulle banche popolari che uscirà da Mondadori tra un mese, e ti invito già il sabato a parlare ai conti della Belva, appunto, con piacere. Diciamo che la maretta tra Penati e i suoi quotisti, che sono principalmente le grandi istituzioni finanziarie del paese, era in atto da mesi. Forse, citando ancora il film glorioso che avevi citato prima, a me viene in mente un'altra scena, quella in cui lui Billy Wilder urla: si può fare. Allora, si può fare, forse Atlante si poteva fare, si sarebbe potuto fare, ma non con 4 miliardi, secondo me, perché con 4 miliardi erotti di euro non si risolvono i problemi di un paese che miliardi di sofferenze, ovvero crediti inesigibili, ne ha circa 90. Esatto. Gli Stati Uniti hanno messo 700 miliardi per risanare le loro banche quando hanno fatto il piano TARP. L'anno scorso, quando hanno messo in piedi questo progetto, qualcuno parlava di TARP italiano, qualcuno anche di quelli, Costamagna, Guzzetti, no? Di quelli che hanno messo i soldi, che hanno fatto il progetto, parlava di TARP italiano. Questo qui non è il TARP italiano, perché non ci abbiamo i soldi, banalmente. Nel frattempo ha parlato, leggo dalle agenzie, proprio il presidente della Fondazione Calipro e dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, a proposito delle parole pronunciate dal presidente di questi Penati, e leggo: le osservazioni di Penati sono del tutto pertinenti. Dopodiché gli hanno chiesto, sì, però Penati è stato critico nei confronti delle banche che hanno svoltato la propria quota nel fondo, e la risposta di Guzzetti è stata: salvo un socio, ha puntualizzato Guzzetti, che è Intesa e Messina, che hanno sempre affiancato positivamente l'azione di Atlante. Questo va chiarito. Quindi anche Guzzetti dice implicitamente: ci hanno deluso gli altri, per così dire. Sulle venete che dici, Andrea? Ma le venete, io mi limito a notare che Atlante, quando le ha comprate, ha pagato 0,38 volte i mezzi propri, e all'epoca, e si parla quindi di maggio 2016, il Monte dei Paschi valeva in borsa 0,15 volte i mezzi propri, quindi meno della metà. Quelle banche sono state pagate, come ha ricordato ieri, un multiplo molto più alto rispetto a quello che era il loro valore intrinseco, e da allora sappiamo che hanno perso, mal contati, credo un'altra decina di miliardi di liquidità. Quindi ogni volta che una banca perde liquidità sulla rete, perde valore. Ecco che sono state pagate molto, però Penati ci potrebbe dire, se fosse con noi, che non c'era alternativa, perché l'alternativa sarebbe stata di creare un grosso problema di fiducia in tutto il sistema, con dei rischi di contagio molto sensibili. Sono state pagate molto sul multiplo, quel multiplo è difficile rivederlo, almeno ora. Le banche quotiste sono obbligate sostanzialmente a svalutare la quota. Oggi il mercato è andato ancora più giù, quindi quegli 0,38 mezzi propri, che erano l'equivalente dei 3 miliardi, dei 2 miliardi e mezzo più uno che ha messo Atlante nelle due banche Vicenza e Veneto, oggi sono un valore difficile da vedere manifestato contabilmente. Io aggiungo che infatti sull'entità dell'aumento di capitale, che Penati ieri ci ha detto comunque finisce con aumento precauzionale secondo la BRRD in cui interverrà lo Stato, gravano dei numeri che sono, adesso bisogna vedere il secondo trimestre dove venete, però insomma dai dati che abbiamo del primo ancora abbiamo più del 20% dei crediti netti che sono distressed, con una media del settore che è il 10% e così via, quindi non è un caso che comunque nelle settimane alle nostre spalle si parlasse di un aumento di capitale superiore ancora ai 3 miliardi. Adesso un minuto di traffico e poi sentiamo cosa ne pensa Camilla Conti. La versione di Oscar. Allora, stiamo parlando di questa dichiarazione a sorpresa ieri di Alessandro Penati, persona straordinaria a mio giudizio, lo conosco da molti anni, che mi sorprese, devo dire, 10 mesi fa, alla testa di Atlante, questi eccetera, che dice no, noi purtroppo agli NPL non potremo mai, visto i soldi che ci sono arrivati, e MPS, l'aumento di capitale fatto coi piedi, anche le due venete, ha parlato di un film dell'orrore e del riferimento alle parole che adesso pronunciava prima dell'introduzione Andrea Greco sul valore e la stima dei crediti distress delle due banche. Camilla Conti, anche tu quindi non sorpresa ieri dalla vuotare il sacco di Penati? Non sorpresa nel senso, no, sorpresa in realtà, perché ecco. io c'ero il 29 aprile, se non sbaglio, dell'anno scorso, quando Penati presentò appunto la comunità finanziaria, partendo appunto da Frankenstein Junior, diciamo il progetto Atlante, e da buon professore salì in cattedra, sembrava appunto una lezione all'università. Io ero tornata indietro di almeno 10 anni, mi sono sentita piccola perché appunto dal pulpito predicava, spiegava e raccontava questa avventura che a detta sua sarebbe stata una maratona, quindi una cosa appunto dal passo lungo, però forse con un eccesso di presunzione, con l'eccesso di presunzione di poter risolvere tutto, magari non velocemente, però comunque di poter essere la bacchetta magica che in quel momento serviva. In quel momento serviva, come ha ricordato lo stesso Penati ieri, per salvare dal bail-in le popolari venete, ma è la prima volta che glielo sento dire fuori dai denti, anche per salvare Unicredit, perché il nome di Unicredit ieri è circolato a questo convegno dei geometri, cioè nel caso del lancio di Atlante, in quel momento lì l'effetto valanga delle popolari venete avrebbe potuto ripercuotersi anche sul futuro di Unicredit, che ricordiamolo sta giocandosi il futuro con un aumento di capitale da 13 miliardi. Quindi sorpresa più che altro per i toni. Ho trovato anche un Penati balbettante in alcuni momenti ieri, e fra l'altro colgo l'occasione, io non l'ho scritto nel mio pezzo sul giornale oggi, di raccontarvi un piccolo backstage. Testimone mi è una collega di Andrea, Vittoria Puleda di Repubblica, siamo uscite, abbiamo ritrovato Penati fuori dalla sala del convegno e io avevo un dubbio, cioè più che altro mi volevo togliere una curiosità, perché Penati a un certo punto, parlando con i giornalisti, ha giustamente attaccato la gestione delle banche, delle popolari, delle quattro good bank salvate malamente dallo Stato eccetera eccetera, ma anche del Monte dei Paschi. Quello che non mi tornava è quando lui mi dice di una pessima gestione del Monte dei Paschi, perché l'ex amministratore delegato dei MPS Fabrizio Viola, che è arrivato al Monte dei Paschi nel 2012, se n'è andato qualche mese fa, sostituito male con Morelli, male mi riferisco appunto alle modalità di intervento del governo, è diventato amministratore delegato della Vicenza e comunque di fatto il timoniere di questo nuovo gruppo veneto che nascerà dalla fusione delle due popolari. Quindi ho detto, professore, ma se sono state gestite male, perché ripetere con Viola, per l'amor di Dio? E lui mi ha risposto che Viola è un banchiere apprezzatissimo dalla Francoforte, che secondo la BCE ci sono due banchieri italiani che sono i più esperti in ristrutturazioni, uno è Fabrizio Viola e l'altro, Penati qui si è lasciato scappare un purtroppo, perché evidentemente non corre simpatia, è Corrado Passera, che ricordiamo l'aveva lanciato una proposta per salvare Monte dei Paschi e poi alla fine non se n'è fatto di nulla. E mi ha risposto anche che Viola nel NPS non poteva fare meglio di quello che ha fatto benissimo, perché di mezzo si era infilato lo Stato con i Monti Bond che erano da rimborsare, quindi gli ultimi aumenti di capitale prima di quello famigerato di mercato che poi è saltato erano destinati a rimborsare i Monti Bond, e quindi comunque un banchiere bravissimo, e per questo l'ha riportata la Vicenza. Continua, da osservatrice, giornalista quale sono, a esserci qualcosa che non mi torna. Aprile l'anno scorso era la bacchetta magica, risolveva tutto, adesso non risolve più niente, si molla Atlante, non serve più. cioè non possiamo più fare un'operazione di sistema, ma dobbiamo fare un'operazione a pezzetti, lo ha detto più volte Penati ieri. Altro tema, le venete, si parla dell'intervento dello Stato, Penati lo stesso ieri ha detto lo Stato non è un bancomat, i 20 miliardi dell'ultimo decreto vanno negoziate le condizioni e non è un pasto gratis. E allora chi lo paga il prezzo? Chi paga il pranzo? È questo anche che dobbiamo ben capire. Io faccio una domanda a Andrea Greco. Adesso, siccome nessuno di noi è in grado di capire quanto siano rimasti delusi i banchieri che gli hanno dato i soldi, ma non capisco come potessero illudersi, visti i soldi raccoglibili in Italia, di avere, come giustamente ricordava Greco prima, la massa finanziaria necessaria ad incidere davvero nel monte netto dei crediti deteriorati. Non sappiamo quanto ha pesato la delusione dei banchieri per le asperità di carattere di Penati, che sono però proprie del personaggio, non credo che potessero dirsene sorpresi, visto che chiunque lo conosca sa che è così, da una parte. Dall'altra, chiedo ad Andrea Greco, ma non è che per caso in questo procedere a pezzetti, che significa di volta in volta mettere in conto vicende delicate che la politica non riesce ancora a maneggiare, dicendo la verità ai mercati e a chi i titoli delle banche, perché anche la vicenda di MPS è tutta di questo tipo qua, non è che qualcuno si illude che forse la proposta in RIA di una grande bad bank europea, che io trovo confusa nelle slide, ma questa è la mia opinione, sta illudendo qualcuno in Italia che c'è dietro l'angolo in questo casino europeo davvero la possibilità di usare uno strumento come quello? Tu che dici, Andrea? Allora, io sulla proposta in RIA di fare una bad bank comunitaria, per adesso la penso come te, in attesa di vedere meglio i numeri e soprattutto in attesa che i paesi nordici, a cominciare dalla Germania, soprattutto nell'anno in cui c'ha le elezioni politiche, abbiano voglia di iniziative che hanno almeno la sembianza o almeno la direzione di mutualizzare strumenti cooperativi, certo, con l'Italia, non credo che ne abbiano la minima voglia. Detto questo, io non sono in grado di dire quanto effetto, cioè, aggiungo, diciamo, che anche chi credesse che Schulz, che adesso è arrivato in vantaggio, può essere l'alternativa, io per primo ne sono convinto, però Schulz stesso, cari ascoltatori, deve prendere i voti dei tedeschi, e se dice una cosa simile forse i voti li perde, non lo so, però inciso, scusa che ti ho interrotto. Direi anche il problema, io non so quanto effetto in RIA, che mi sembra al momento più una speranza po' illusoria. Sicuramente è il momento, se sarà il momento di vedere i bilanci, quando vedremo che lo Stato dovrà mettere ancora, e io ne sono abbastanza sicuro, ma l'ha detto anche Penati ieri, una parte sensibile della ricapitalizzazione delle banche venete. Giochiamo con dei problemi bancari molto molto gravi e con un paese che non può fare debito pubblico per aiutare le proprie banche e non ha voluto, perché ne ha già abbastanza, e non ha voluto quando c'erano le occasioni, ovvero quando il dettato delle norme comunitarie era molto più favorevole ai salvataggi. Non ha voluto approfittare di questo perché non voleva condizionalità politiche, bravo, non voleva inguagliare. Bravo, non voleva fare come Spagna e l'Irlanda, esatto. Esatto. Io stamattina ho incontrato un banchiere olandese che mi diceva di come la ING nel 2008 è stata salvata magnificamente dallo Stato, oggi ha fatto 5 miliardi di euro nel 2016 di utili, a tutti i fattori, indicatori di crescita a due cifre. Il problema è che bisognava riconoscere il guaio in arrivo per tempo, c'erano gli strumenti sia nazionali che strumenti cooperativi europei, naturalmente sto premono a vincoli, non ha voluto farlo l'Italia, questo è il problema. Domanda secca e risposta secca da parte di Camilla Conti: ma si può vicenda anche delle venete oltre che di MPS aperte secondo te? Te lo chiedo sardonicamente, visto che scrive sul giornale, farà la campagna elettorale secondo te? Ma sì, sicuramente è stato già fatto, soprattutto su Siena. Si può. Sulle venete sarà un pochino più complicato, perché magari è un po' più un argomento di nicchia, però si può fare. Si può fare. Come dice il filosofo, siamo abituati a tutto. Io dico che la vedo sempre più complicata, però la risposta di Camilla è: si può fare. Grazie Andrea Greco, grazie Camilla Conti. E cari veneti, pensateci, perché se non accettate quel 15% e la banca resta piena di contenzioso, l'aumento di capitale deve essere ancora più forte, e voi, se avete un'obbligazione ancora in mano, auguri, continuate su Radio 24.